ci vuole tanti sacrifici per fare questo lavoro, questo mestiere, che poi in fondo sei apprezzato, a volte non sei apprezzato. Cioè quando vinci, quando sei grande, tutti qui, là, e quando poi non sei più, ti danno le calcagna e dispiace molto. Quando vinci, quando sei grande, tutti qui, là, e quando poi non sei più. Agile, equilibrio poco stabile, abile funambolo, ma la corda è fragile. Dentro a questa immagine mentre scrivo ste pagine, la vita mi dà calci, ma io non sono gracile. Io non so che farci, può darsi che gli altri che stanno davanti, sai, siano più grandi tra tanti sfidanti. Ne vedo distanti, distinti, infame di contanti. Io che avanzo dinanzi ad ostacoli, cado, mi rialzo senza troppi calcoli. Sistema mi brama con i suoi tentacoli, zero miracoli a placare gli animi, fatti mai chiari, sempre rincari. Oggi precari davanti scenari, tipo safari, deserto e leoni. Sa anche lavori, poi niente pensioni. Io ci spero, lo metto per iscritto, qua tutti furbi e il politico prescritto. Zio, ma ci pensi o pensi allo scitto? Lo sai che i neuroni gli danno l'affitto? Te lo dico amico, questa è un'accusa per chi ci usa e non chiede scusa. Da Lampedusa a Bolzano, senti come non l'ho fatto il rap italiano. Ma tutto effimero, come la vita di un fiammifero che porta luce, poi si spegne lasciandoti al buio da solo in un vicolo. Ma abbiamo un'aura dentro, l'accendo quando sento che posso dire quel che mi pare con questo floreale. Incastrato da regole, vivo senza remore, non avrò in omaggio una batteria di pentole. Aumenta la fuga, ma dubito della mia meta, la stella cometa è caduta. Dove? Sono al buio, è preludio, la mia rinascita, la recco in studio. Vedo la luce, se rimo sereno, non sono ma sfogo le pare sul suono. Frate sclero, mi esplode la testa, quando vedo che resta gente disonesta. Al potere in poltrone imbottite, ma in botte sostanze proibite nei nasi dei leader. Non la reggo questa storia qua, non ci sto, cerco di cambiare la realtà. C'è chi rappa con un senso, chi fa bla bla bla. Underground commerciale, rap da discount. Conta lasciare segno, cambiare qualcosa è meglio. Deve essere sveglio anche senza sostegno. Lavora al tuo disegno, ma fallo con impegno. Sofferenza, sacrifici, ti conti su una mano i tuoi veri amici. La forza e il coraggio di dare un messaggio, ma ragionando, ascoltando chi è saggio. Ma tutto effimero, come la vita di un fiammifero che porta luce, poi si spegne lasciandoti al buio da solo in un vicolo. Ma abbiamo un'aura dentro, l'accendo quando sento che posso dire quel che mi pare con questo floreale. Questo è come lo faccio, frate, vedi che son cannonate quando tiro fuori il flow. Non lo vendo mica rate, qua zero rime scontate, niente saldi ma gratuite ad ogni show. Ma non conta la velocità, conta dove si va. Se quello che racconti è solamente la realtà, liberamente libero la mente con il rap. Triste da dire, soffrire ci aiuta a capire, per riuscire ad uscire dai guai. Non ti salva certo la protezione civile, sbagliare per comprendere che devi insistere per i tuoi sogni. Senza non ha senso esistere. Nella vita bisogna avere forza e coraggio per potersi riprendere, perché è lunga la vita. E se non si sa prendere è anche molto triste e dolorosa.